Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qua, cari ascoltatori, eccoci in diretta alle 8:20 primi e 20 secondi, anche in questo venerdì di fine settimana, ovviamente, 17 giugno. Come tutta la settimana Oscar Giannino da solo, perché Alessandro Milan però tornerà lunedì prossimo, si è preso qualche giorno e ieri li ho saltati i santi del giorno, a dire la verità. Oggi ve ne dico solo alcuni perché c'è una lista infinita, devo dire veramente le cose come stanno, da Sant'Adolfo di Maastricht a Sant'Antidio Vescovo. Attenti, Antidio, non Antidio, perché un vescovo Antidio sarebbe stato impossibile, ovviamente non nel calendario liturgico. C'è Sant'Agrippino di Como, c'è il patrono di Pisa, San Ranieri, l'eremita, c'è Sant'Imerio, Ipazio, Isauro, Ermia, Nicandro, Valeriana, e mi fermo perché ce ne sono veramente tantissimi altri. Allora, è la giornata mondiale della lotta alla desertificazione e alla siccità, è la festa della Repubblica in Islanda, gli islandesi la stanno, per così dire, festeggiando con un buon europeo di calcio. Tra le cose da ricordare oggi, nel 1970 il mitico 4-3 in Messico, Italia, Germania di calcio, che molti ricordano, molti vecchi oramai, e anche oggi ne parleremo in una trasmissione, c'è la nazionale italiana che gioca agli europei. Nel 1982 Calvi si appendeva al ponte di Blackfriars Bridge a Londra, il banchiere, la cui morte non è mai stata chiarita, non ci crede nessuno, io non ci ho mai creduto che si sia appeso lui, qualcuno lo ha appeso, l'ex banchiere e pedalista dell'Ambrosiano. E lo stesso mistero, pensateci bene, è in Italia al Monte dei Paschi, su, io ne sono convinto, sull'assassinio del povero David Rossi, portavoce del Monte dei Paschi, volato giù dalla finestra. E finché non sistema un MPS, l'assoluta omertà dei mezzi di comunicazione, di tutti eccetera, su quella vicenda, io mi inchino di fronte alla moglie che si è impegnata per far riaprire l'inchiesta, che non scandalizza nessuno che a qualcuno al Monte Paschi abbia buttato giù dalla finestra David Rossi. E qualche cosa che a me fa venire in mente purtroppo lo schifo degli anni di Calvi e dell'Ambrosiano, e abbraccio ancora davvero la vedova che ha la testa dura, e inviterei i colleghi dei grandi giornali a occuparsi di questa cosa, dietro la quale ci sono interessi innominabili che invece impediscono di occuparsene. Tra l'altro, 1983, a proposito di casi di mala giustizia, oggi veniva arrestato Enzo Tortora, uno dei più orrendi, schifosi casi di mala giustizia nel nostro paese. E auguri a Sergio Marchionne, che oggi fa gli anni, anche se non ci ascolta di sicuro. La giornata ha delle notizie davvero terribili, perché io sono convinto che quello che è avvenuto ieri nel West Yorkshire, cioè l'assassinio della parlamentare laburista Jo Cox, sia una cosa che avrà un effetto molto molto grande e pesante nel voto del referendum per stare o meno nell'Unione Europea, nel Regno Unito, perché il Regno Unito, dopo Cromwell e tranne l'IRA, i terroristi dell'IRA, i separatisti irlandesi, da secoli non hanno l'abitudine di regolare i conti della politica con il sangue, cosa che ha avuto invece l'Europa continentale, con le sue dittature, con l'eliminazione dei nemici, con i terroristi di destra e di sinistra interni che noi abbiamo avuto fino a pochi anni fa. E magari qualcuno ce n'è ancora che crede di poter fare il brigatista qua nel nostro paese. Ecco, in Gran Bretagna questa roba non c'è, e quindi l'assassinio di questa giovane motivata parlamentare laburista europeista e che stava molto da fare per i siriani, non era molto convinta di Jeremy Corbyn, il leader laburista più di sinistra rispetto a lei, non aveva votato contro l'azione militare in Parlamento come invece chiedeva Jeremy Corbyn. Ecco, l'assassinio da parte di un matto, quanto volete, un pazzo, non sto dicendo che è un politico, però un pazzo, probabilmente questo Thomas Mayer, motivato dal nazionalismo del suo paese da difendere contro l'Europa per uscire dall'Europa, questa cosa avrà un grande effetto, io sono convinto di questo. E tra i vari pezzi segnalo quelli di Severgnini sul Corriere e di Riotta sulla Stampa. Il tema è l'odio. ed è un odio che secondo me c'è anche molto oramai nelle campagne elettorali del nostro paese. Però consentitemi di fare uno strappo alla regola della gerarchia delle notizie. Non è considerata una notizia molto importante, ma per me lo è, che io ho seguito per anni la storia dei suicidi nella crisi italiana. Allora, il fatto che si sia suicidato ieri Antonio Bedin, pensionato, malato, 69enne, ma perché ha perso centinaia di migliaia di euro, gran parte di tutti i suoi risparmi, nella Popolare di Vicenza andata in fumo, ecco, per me questa è una notizia che meritava le prime pagine. Meritava le prime pagine perché credo che stiamo passando in cavalleria la responsabilità delle grandi autorità di vigilanza finanziaria italiana, cioè Banca d'Italia e Consob, sulle vicende che per anni hanno consentito la distruzione di valore in quelle banche, Veneto Banca, Vicenza, tante altre, le banche risolte a novembre. Sta passando tutto in cavalleria e ci sono solo nel Veneto 210.000 soci che ci hanno perso oltre 11 miliardi di euro, e pare che questa roba qua valga poco o niente agli occhi della grande informazione. La gente si suicida, come ha fatto Antonio Bedin. Oggi è il Fatto Quotidiano ad aprirci il giornale, con un titolo magari duro, aggressivo, quanto volete, cioè sul fatto che per le banche si muore ancora, le banche uccidono ancora, anzi, troppo duro, però guardate che ci stiamo dimenticando di una ruberia diffusa di fronte alla quale le autorità hanno tenuto gli occhi chiusi, a mio giudizio. E quindi un abbraccio ai parenti di Antonio Bedin, ma è il nostro mestiere di giornalisti che ne va di mezzo, secondo me. Tra le altre segnalazioni, ma vado poi all'argomento delle telefonate, al primo ospite. Guardate che all'indomani dell'approvazione del decreto da parte del governo delegato sulla stretta, ne abbiamo parlato, contro gli assenteisti pubblici, uno apre la Stampa di Torino e trova un bell'articolo: San Giuseppe Vesuviano, all'INPS di San Giuseppe Vesuviano in Campania, su 16 dipendenti, 7 del locale ufficio dell'INPS, naturalmente timbravano e se ne andavano, beccati ieri dopo un'indagine della procura di Nola. Come vedete, la gente non ci crede affatto che cambieranno le cose. Allora, intanto, su cosa vorrei che ci telefonaste? Lo sappiamo tutti, oggi alle 15, o comunque lo sanno molti, alle 15 gioca l'Italia agli europei contro la Svezia di Ibrahimovic. E allora io vi faccio una domanda fuori dai denti: dite la verità a proposito di assenteismo, vi siete organizzati oggi, la maggioranza di voi in ascolto, anche voi, per non lavorare dalle 3 alle 4 e mezza? Allora diteci come fate oggi per vedere la partita, oppure la ascolterete, la guarderete con l'occhio sul computer mentre fate altro. Abbiate un sussulto di verità, cari uomini e donne in ascolto, visto che l'avete travolgentemente vista la prima partita dell'Italia europei in 15 milioni e mezzo. Quindi non credo che oggi improvvisamente tutti sarete presi dall'obbligo del lavoro. Mi piacerebbe pensarlo, non perché sono un moralista, ma invece penso che molti di voi non lo faranno. Allora chiamateci e diteci come affrontate oggi dalle 3 alle 4 e mezza la partita degli italiani e europei. Noi nel frattempo avremo due ospiti nel proseguo della puntata, due signore, due donne, due scrittrici, con le quali affrontare dal loro punto di vista il problema noto degli uomini del calcio nel nostro paese, però sono tifosi anch'esse, quindi io sono in minoranza assoluta. Allora, continuiamo nel giro, visto che è l'ultimo giorno di trasmissione prima del voto del ballottaggio nelle grandi città italiane, con l'ultima grande città che c'era rimasta, quella il cui risultato poi è più indeciso insieme a Torino, cioè Milano. Vediamo in cosa si ripone la speranza di uno dei due candidati a Milano, Stefano Parisi, con le sue parole. Dobbiamo convincere le persone che devono andare a votare domenica. Per fortuna è brutto tempo in tutte le città, ecco, di mare intorno a Milano, ecco, e quindi tanto vale rimanere a casa, andare a votare, e allora può essere che vinciamo. Allora, come vedete, la speranza di Parisi è stare in brutto tempo, cioè sul fatto che nel giugno avanzato la partecipazione al voto degli elettori di centrodestra a Milano possa essere più penalizzata dal fatto che le mamme con i figli a scuola chiuse sono andate via, eccetera eccetera. Tutta la polemica sulla data in cui è stata fissata le elezioni si incentrava su questo, e devo dire la verità, se uno scorre i grandi giornali nei servizi finali dedicati al ballottaggio a Milano, c'è una specie di tono in caduta in questa campagna, cioè non c'è stato il grande balzo in avanti, l'invenzione della novità, tant'è che oggi molti quotidiani si soffermano più che altro sul fatto che Salvini, il leader della Lega, che naturalmente appoggia Parisi, che non ha avuto un ottimo risultato nel primo turno perché nessuno si aspettava che Forza Italia andava al 21% e la Lega al 15%, Salvini ci arriva con la bocca un po' stretta e ci sono molti articoli in cui si prendono le sue dichiarazioni in cui dicono: ma io sto zitto fino a domenica perché Parisi mi ha un po', per così dire, stuzzicato troppo. Sto zitto, ma dopo faremo i conti. Ma al di là di questo, come abbiamo fatto tutti gli altri giorni, abbiamo scelto di avere con noi un osservatore indipendente, quindi Gian Giacomo Schiavi del Corriere della Sera, che in questa campagna elettorale, ma come sempre, Gian Giacomo Schiavi scrive molti bei pezzi di interpretazione alta dei problemi dello sviluppo di Milano. Quindi io lo ringrazio in particolare per questo impegno che mette sul Corriere della Sera al servizio della Grande Milano. Grazie di essere con noi, Gian Giacomo. Grazie, grazie Oscar Giannino e saluto i radioascoltatori. Dal vostro punto di vista, novità in queste due settimane oppure tutto fermo come prima, o avete registrato comunque dei visibili fatti che rispetto al voto del primo turno, un po' a sorpresa, potrebbero cambiare le cose? Hai detto bene tu, la campagna non è in crescendo perché ci sono due assenze, cioè l'assenza del Premier e quindi l'assenza di Renzi su Milano. Renzi non è amatissimo a Milano e soprattutto la sua assenza è stata richiesta dai milanesi e dalla sinistra a sinistra, che non lo ama troppo, e quindi Renzi è mancato. L'altra assenza evidente è quella di Berlusconi, che può anche invece essere un'assenza presenza, perché il suo ricovero e l'affetto conseguente potrebbero avere un effetto malizia, secondo potrebbe, te? Ma diciamo che forse c'è una sensibilità, ecco, detto senza malizia assolutamente, e comunque la carica di umanità che in questo momento può aver portato effettivamente sì, cioè potrebbe anche esserci un piccolo effetto in una situazione in cui Forza Italia non esiste, perché gli stessi candidati su Milano di Forza Italia dicono: noi andiamo nei mercati ma non c'è l'organizzazione di partito. Da questo punto di vista è più forte la mobilitazione dall'altra parte, nell'entourage di Sala, perché lì si sono dati un compito, che è quello di telefonare a casa a tante persone, a tanti potenziali elettori, proprio perché lo spauracchio, diciamo così, della sconfitta in volata è molto forte. Oh, da questo punto di vista, la tenuta però, l'impressione è stata, per così dire, che dopo il voto al primo turno, in cui c'era una rappresentanza, Basilio Rizzo e così via, della sinistra, a sinistra di Sala, l'impressione da fuori è un po' che il serrata del file stia funzionando abbastanza su Milano. È corretta questa impressione secondo te? Sì, c'è un tentativo proprio così di nuovo di fare quadrato. Quello di stringersi dicendo: ma rischiamo qui di buttare all'aria tutto, di perdere tutto. Ed effettivamente è un po' un paradosso, perché tutto sommato Milano vive un momento particolarmente felice dal punto di vista, diciamo così, internazionale, dell'attrattività, il post Expo, al di là di tutte quelle che sono state le discussioni, le polemiche, i numeri, le cifre. Comunque Milano vive un momento interessante e molto importante, e effettivamente chi amministra questa città dovrebbe capitalizzare un momento del genere. Questo non è avvenuto, non è avvenuto al primo turno, non è avvenuto soprattutto perché la candidatura di Sala è stata considerata troppo di destra per la sinistra, e in effetti anche questo gioco che ha usato il centrodestra del candidato fotocopia o del candidato specchio effettivamente fa dire a molti: è più a sinistra Parisi rispetto a Sala, per esempio, è l'opinione di Dario Fo. È l'opinione di Dario Fo, che però non si sa quanto sia un'opinione poi alla fine fondata o non sia l'espressione del solito gioco: il nemico del mio nemico è amico, e invece io divento amico anche di chi invece mi dà una mano a buttare giù che non sopporto. Che è un po'. Oggi c'è un bellissimo articolo di Pierluigi Battista che io condivido in pieno sul Corriere della Sera su questa cosa qua. Però detto tutto questo, la cosa che mi colpisce però è che forse Milano è un po' fuori dagli schemi, non piace troppo a chi da fuori vede questa campagna per il sindaco, perché è quella che meno si conforma al fatto che i due candidati si devono insultare, perché alla fine c'è un rispetto di fondo tra i due, qualche punzecchiatura, ma rispetto a quello che si vede nelle altre grandi città, il minimo sindacale, ma non è un segno di superiorità e civiltà? Non sbaglia l'informazione in questo, secondo te? No, è un segno di superiorità e di civiltà, anche perché il livello dei candidati, l'abbiamo detto durante questa campagna, chi perde a Milano potrebbe essere un ottimo sindaco per Roma. Il punto è che ci sono due candidature che vengono da storie personali, da storie professionali, comunque alte, comunque impegnative, comunque importanti. Uno ha realizzato Expo, l'altro è stato i city manager di Milano importanti in una stagione che è stata quella del sindaco Albertini, che ha segnato anche una ripresa per Milano, direttore generale di Confindustria, amministratore delegato di Fastweb. Quindi hanno delle carature un po' particolari e soprattutto hanno anche un modo di porsi che, al di là, diciamo così, di alcune stilettate degli ultimi tempi, è sicuramente anche un livello non banale, ecco, non banale. Allora, io penso, io sono d'accordo con te, non è avere il culto della superiorità di Milano vedere questo e sottolinearlo, e quindi secondo me teniamocela stretta questa identità e questa caratteristica di Milano. Io spero che contrassegni anche poi il risultato, cioè che sia lo stesso spirito a vedere tutte le parti politiche impegnate in una grande Milano che secondo me può essere il traino della crescita. Guarda, non italiana c'è mai stata, non c'è mai stato un momento, diciamo così, in cui due candidati sono stati testa a testa e così vicini e così incerto l'esito finale. Esatto, anche no, secondo questo, infatti questo secondo me sarà il significato politico più importante, al di là di quello di Roma, eccetto anche Torino, però Torino è molto più complicato, ma qui c'è una questione che riguarda anche lo sviluppo di un centrodestra completamente diverso da quello dei vent'anni che abbiamo alle spalle, che non è un problema da poco, mi pare. Esatto, infatti Parisi ha posto questo problema, cioè che anche è stato questo il punto sul quale Milano si è distinta. Un centrodestra smarrito, senza bussola, ha ritrovato comunque una figura sulla quale si può costruire qualche cosa. Va bene, intanto grazie a Gian Giacomo Schiavi. Milanesi, pensateci bene, noi ci sentiamo dopo qualche minuto di pubblicità. Eccoci tornati in diretta in questo venerdì che per molti di voi lo vedo dal tumulto, dall'ondata prorompente di messaggi che sono arrivati per risponderci alla domanda come vi siete organizzati per la partita di calcio. Allora c'è per esempio chi dice: oggi dalle 14.30 alle 18.30 ho il corso di prevenzione incendio. E vabbè, molti, e che dicono non me ne frega niente, però tantissimi altri che invece dicono per esempio: oggi si lavora perché ho riunione clienti, maledizione. Però c'è più di un direttore di qualche azienda che dice: beh, oggi io ho invitato i dipendenti a vedere negli spazi comuni la partita. Quindi le aziende sono auto-organizzate sapendolo che altrimenti avrebbero dovuto scontare degli assenteisti. C'è chi dice: assemblea alla materna, devo prendere il bimbo alle 14, non posso lavorare, che sfortuna. Non so se avete capito, si è organizzato il genitore per avere la scusa per guardare la partita. Quindi io devo ammettere, siete molto sinceri, la stragrande maggioranza di voi ammette, perché molti dicono ho la febbre, sto a casa, molti ammettono che avete fatto gli assenteisti pubblici, questa è la verità vera. Con ironia, c'è la nazionale, però molti di voi lo ammettono, e molte aziende, da quel che vedo qua, gli autonomi invece devono fare reddito, ma molte aziende hanno capito che era meglio, per così dire, consentire, perché anche qua dice ecco che questa è un'altra piccola società che ci dice di aver fatto la stessa cosa con i suoi dipendenti, quindi c'è una specie di ascolto complice. Il DG della mia azienda multinazionale con 450 dipendenti d'Italia ha mandato una mail invitando tutti a vedere la partita nei nostri, e vedete, le multinazionali fanno così. Vabbè, comunque vediamo invece nelle telefonate se ammettete la vostra, diciamo, tendenza come tifosi ad abbassare la produttività italiana. Sto facendo una battuta, su, adesso non prendetemi come moralista. Giovanni da Monza. Giovanni, allora, come funziona oggi la partita della nazionale per te? Sì, buongiorno Oscar, io faccio parte di quel gruppo dove l'azienda ha organizzato nell'area break insieme alle 15, e come da sempre, nel senso che anche i mondiali precedenti, gli europei precedenti, abbiamo questa buona abitudine dove è inutile cercare scorciatoie, anzi è bello farlo insieme, così come si lavora insieme, e quindi saremo tutti lì, nella buona e nella cattiva sorte, nel senso che anche quando è andata male eravamo lì, e speriamo che oggi vada meglio. E vabbè, allora questo, cioè, un sms che arriva adesso è: sto portando la birra in ufficio, cioè vedo che qua siamo veramente gli alcolici, ecco, almeno gli alcolici, Giovanni, da voi non ci sono. Sentiamo Antonio da Mestre. Antonio, invece, tu come sei organizzato? Siccome sono infermiere, ho fatto farmi un turno smontante notte, la moglie, che anche lei è infermiera, fa il pomeriggio, come godo la partita da solo. Ecco, naturalmente spero che poi recuperi per il prossimo turno notturno un po' di sana, per così dire, sano sonno, perché sennò poi i pazienti ci vanno di mezzo. Tobia da Venezia, Tobia, prego. Sì, anche io sono parte di una società che ha organizzato in videoconference tra tutte le sedi d'Italia per vedere la partita insieme. C'è poco da fare. Poi, chi propone un'idea dell'Italia in cui le imprese siano allo scontro frontale con i lavoratori, mi pare che poi in nome della religione del calcio non c'è fiom che tenga, cari amici. Non c'è contrasto sul salario di produttività o sui salari, perché ci si scopre tutti congiunti e uniti. Adesso, senza esagerare, molti di voi naturalmente ci stanno dicendo che lavorano comunque, però guardate che lo sapevo che era un buon sondaggio. Era un buon sondaggio perché rivela il fatto che poi è la priorità vera, altro che questo, per è una delle poche occasioni in cui l'Italia si riunisce. Anzi, ci sono alcuni che ci mandano messaggi dalle aziende che dicono: ma è un'ottima occasione per fare team building addirittura, quindi le imprese la mettono sul produttivista. Alcuni di voi ringraziano anche per la menzione dei risparmiatori. Non dovete ringraziare, io mi trovo a disagio nel mestiere di giornalista a vedere che si parli così poco di questa roba, perché si è convinti come giornalisti dall'alto, dalle autorità regolatorie, che bisogna difendere la stabilità bancaria e non bisogna darvi l'impressione che le banche siano nella merda perché sono state gestite da bande di ladri verso le quali i regolatori sono stati complici. Io apposta sto caccando la mano perché sono convinto che dovremo fare l'opposto. Il nostro mestiere è quello di fare grandi paginate come quella che ci trovate oggi su Repubblica, tardiva, ma almeno c'è, perché su altri giornali non c'è, in cui si spiega che è solo grazie alla vigilanza della BCE che sta uscendo fuori. Per quanti anni la Banca d'Italia ha fatto finta non vedere che il patrimonio di vigilanza popolare di Vicenza era adulterato e autofinanziato dalla banca? Io la penso proprio così. Noi stiamo facendo un cover up come sistema dell'informazione sulle responsabilità dei regolatori, lo comprova anche il fatto della Consob di questi giorni. Chiudo questo capitolo e torno alla faccenda della partita con le due ospiti che abbiamo oggi e che hanno accettato di venire a parlare di questo santo luogo comune dell'universo maschile, ma oramai nazionale, non c'è più probabilmente una differenza di fondo, e loro sono scrittrici, osservatrici del costume, eccetera eccetera, e scrivono anche di questo particolare atteggiamento. Sono con noi, io molto ringrazio innanzitutto Lia Celi. Buongiorno. E poi una scrittrice cui cognome all'inizio mi ha molto colpito, perché il cognome è Shandivashi, il nome è Simonetta, italianissima, ma io quando ho letto la prima volta Shandivashi credevo che fosse una naturalizzata, colpa mia, perché invece è un cognome pugliese. È così, Simonetta? Buongiorno. No, il cognome in realtà è Lucano. È Lucano, quindi siamo Lucano. Tra Matera e Ferrandina. Siamo tra Matera e Ferrandina, esatto. Quindi un posto fantastico per arrivare, nel quale da Milano ci si mette circa il doppio che per andare a Mosca, perché queste sono... O a New York. Ecco, lo so. Esattamente così. Quindi tu in realtà sei una straniera in patria per questo, però tu scrivi a favore del culto del calcio. Sì, scrivo, ma è stata divertente che io scrivo di calcio senza intendermene. Non sono neanche una tifosa. Questa è praticamente quasi una regola, però scusa, non sei un'eccezione da questo punto di vista. Ah sì, questo sì. Perché tu addirittura curi sul foglio una rubrica gioco maschio, hai scritto sì. Un libro la domenica, lasciami sola. Ma la verità è che siccome tu sei innamorata di un campione di calcio, perché sennò come cavolo è che sei così favorevole al calcio? Ma perché il calcio è un grande sogno che non va screditato, perché è un momento di distrazione. E io sono innamorata, persa della distrazione. Credo che sia un concetto altissimo, è il sabotaggio dell'efficienza. Quindi, ecco, hai capito. Prima... Lo sapevo che sì. Sei una marxista, così. Sei una fan di Montanari. Tra l'altro, cari amici ascoltatori, tutti quelli che vi siete scandalizzati ieri perché la cosa di Repubblica su D'Alema, eccetera, oggi lo storico dell'arte Tommaso Montanari, Leo Di Settis, nemico del mercato, è quello che volete, e quindi Simonetta Shandivashi sicuramente lo ammirerà, ha confermato che D'Alema lo aveva chiamato per fargli fare, dicendo: fai a fare l'assessore per la Raggi. Quindi è tutto vero quello che ha scritto Repubblica, ma comunque tu sei per il calcio che sabota il PIL, come oggi è così. In realtà il calcio è una delle manifestazioni in Italia più distorte dell'assenza del mercato, perché sono anche lì affari, voti, opacità. Voi difendete il sistema Tavecchio, Simonetta, è così, ammettilo. Sì, a me Tavecchio piace tantissimo. Ti piace Tavecchio? Mi piace tantissimo. Invito tutti gli ascoltatori a leggere un pezzo di Lanfranco Pace di un paio di giorni fa, meraviglioso, in cui diceva che Mastita Vecchio è quest'uomo rotondo del Novecento, ma vabbè, ce ne saranno più così. Ma vi eccitate ai film porno coi ciccioni, evidentemente, cioè è una cosa pazzesca. No, non esagererei. No, il vabbè, sto facendo è Carlo Verdone. Vabbè, allora vabbè, Simonetta, allora, tu hai appena confermato in realtà con l'autoironia, stiamo scorzando e giocando, che l'ascoltatore, per favore, certo. Però Simonetta ha appena così, ha fatto un accenno a un evidente problema nella sua proiettività erotica, perché capite così, il Verdone di oggi. Ma invece Lia Celi, almeno tu Lia, dai una mano a questo povero minoritario maschio che pensa al PIL, che è sempre molto incazzato per l'opacità degli affari del calcio italiano, tanto per essere chiari, del sistema di potere che lo esprime. Non ha niente contro lo sport del calcio, ma mi pare che insomma lo sport, quando io vedo che so chi sono i fascisti russi che Putin difende, che sono espulsi giustamente dalla Francia, dico che dietro lo sport c'è molto poco oramai, anche agli europei. Però la tua opinione sulla giornata di oggi e su come la passeranno gli italiani a fare gli assenteisti pubblici qual è, Lia? Beh, ma a me dispiace, perché non puoi chiedere a un'italiana, non dico a prescindere dal sesso, cosa fa il giorno della partita, perché gli europei, le partite internazionali sono forse le uniche occasioni in cui uomini e donne si trovano insieme davanti alla... Ma non è vero! Poi fra la mano, poi fra l'altro... Ma che uomini frequentate? Gli uomini non le vogliono le donne tra i piedi il giorno della partita. Ascolta, se ti sono pesanti, nella mia lunga esperienza della vita ho imparato una cosa, c'è solo una categoria peggiore degli uomini troppo fanatici del calcio, sì, cioè quelli che il calcio non sopportano. È la mia, lo perché so. In genere sono degli snob terrificanti, magari ti obbligano a guardare degli sport ancora più noiosi, che ne so, l'equitazione, la Formula 1. Ma ogni tanto ve ne è capitato uno che invece di obbligarvi allo sport dice cazzo facciamo sesso? Ogni tanto uno ve ne è capitato, no? Ma il calcio, lo sai che è una grande metafora del sesso, no? Queste porte, questi falli. Ma non mi interessa la metafora, scusa, perché ma dov'è la metafora del sesso, il calcio? Ma dove? Penso questa Adoro. Cosa incredibile, che la donna più autorevole del calcio televisivo, che è Ilaria D'Amico, è fidanzata, sì, col portiere. Cioè, è come se una volta Biscardi fosse stato fidanzato con Zenga. Pensa alla rivoluzione del costume, dei rapporti fra i sessi che stiamo vivendo adesso. Biscardi con Zenga. Cioè, veramente avete un problema. Ma lo sta emergendo anche lì a Celi, come Simonetta Scendivasci, dopo aver accennato a questa roba che non voglio ripeterla, perché altrimenti mi parte veramente un neuro. Voi capite, Biscardi con Zenga, una cosa da intervento delle guardie svizzere. Questa è un'altra che la legge sulle coppie di fatto, questo è il progresso, insomma. Il progresso. Comunque, vabbè, anche tu inneggi. Quindi tu oggi sei organizzata, no, non voglio sapere con te, non voglio entrare nella tua vita privata, quindi la guarderai anche tu. Ma sì, perché non si fa solo team building nell'azienda davanti alla partita, ma anche in famiglia, perché tutta la famiglia si ritrova, tifa insieme, fa casino insieme. Io con dei figli lo so, la grande esperta di calcio, peraltro, è una delle mie figlie, quindi insomma è una cosa che la grande esperta di calcio è una delle tue figlie, è femmina. Figlie, sì. Sì, una figlia che ha fatto anche calcio, quindi se ne intende. Vabbè, è tutto cambiato, allora, Oscar, è inutile. Lì, però su questo, allora lì cambio tono e divento serio. Allora, se ha fatto calcio, lo capisco, altro che se lo capisco. Anzi, chapeau. Cioè, quando si pratica uno sport, io ce l'ho con chi non pratica lo sport e fa il grande esperto, perché in Italia è lo sport nazionale, sono tutti CT come noto. Se hai una figlia che ha fatto calcio, lo capisco, e viva, batto le mani, allora altro che, eccetera, eccetera. Ma è vero che anche secondo te c'è questa storia della metafora, cioè le donne guardano il calcio perché gli piacciono fisicamente i calciatori, anche o no? Certo, torniamo ai tempi di Zenga, questi calciatori ancora un po' rachitici, mingherlini, non palestrati. Adesso è tutto un'altra cosa. Ed è meglio, ovviamente. Tu preferisci? Tu preferisci? Io preferivo gli esangui centratanco come Pierino Prati, perché non avevano un filo di muscolo. Pierino Prati, voi non eravate ancora nate, siete nate 30 anni dopo. Ma insomma, per chi è vecchio come me, erano tutti giocattolini che trotterellavano. Adesso li devastano di palestre, steroidi, hanno circonferenze cosce che vi fanno sicuramente sognare. Però ma poi ci sono queste barbe, ci sono più barbe che in un coro alpino ormai nella squadra, nella nazionale di calcio. Adesso capisco perché guarda tre partite. Però nella nazionale rumena non era proprio così, c'era un portiere abbastanza mingherlino, no? Che abbatteva le attese erotiche delle donne, mi pare di capire. Allora, quindi a voi non piace il portiere dell'Ungheria, che è un mio mito, il mitico quarantenne in pigiama, non vi piace? No, ma io ricordo questo russo che si chiamava Dassi, era nero e secchissimo, ma allora ci accontentavamo, insomma. Vi accontentavamo. Erano altri tempi, come vedi io sono anche da ragazzina guardavo le partite, quindi... No, da ragazzina, amiche, l'altro ieri, non fate finta per essere esperte e accreditate, voi avete successo nella vita, ma siete giovanissime, perché siete la riprova del fatto che le donne giovani vanno avanti, sono i maschi giovani che non vanno più avanti al nostro paese. Vabbè, detto ma tutto questo, perché siete più brave, questo è il punto. Allora, grazie a Lia Celi, grazie a Simonetta Sciandivasci, e parte la musichetta, torna staccato, aspetta te, perché lunedì è con noi per commentare l'esito del ballottaggio, votate bene, Alessandro Milan, che io saluto, continuate su Radio 24 e domani dalle 10 alle 12 per parlare di Brexit con me, Carlo Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminerio, dei gufacci terrificanti come siamo, dalle 10 alle 12 i conti della belva domani. Tenore ce l'ha me. C'è anche sabato, urliamolo insieme, Oscar. C'è anche sabato, c'è anche sabato.